Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Adesso che la campagna acquisti cessioni è definitivamente chiusa, è tempo di seri bilanci tecnici, ma anche economici o, se preferite, finanziari. Ora, tecnicamente non c'è dubbio che il Milan abbia ridotto in maniera molto sensibile, se non addirittura azzerato, le distanze dall'Inter, questo almeno sulla carta. E di questo più tardi converseremo insieme, così come parleremo della campagna acquisti del Genoa, che mi sembra delle squadre di complemento, di rincalzo, mi sembra quella che si è rinforzata più seriamente. Dal punto di vista economico, finanziario, ripeto se preferite, invece ci sono molte, ma molte domande da porsi. Alcune sono arrivate già per iscritto, via mail, come sempre. Per questo ho convocato al capezzale l'esperto del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo. Marco, buongiorno. Buongiorno. Dunque, senti, io partirei da questa operazione Borriello-Roma. Perché? Perché ha avuto una discreta risonanza, soprattutto in una chiave. La stampa l'ha sottolineata in maniera particolare, l'ha amplificata. Il titolo della stampa di stamane, nelle pagine sportive, non in quelle economiche, è "La strana campagna di Profumo, l'interista che rafforza la Roma. Da Burdisso al nuovo bomber, decisiva Unicredit. E la Sensi può smarcarsi dall'autofinanziamento." Ora, insomma, da anni si sa che si dibatte sul fatto che la Roma si dibatta in difficoltà economiche molto serie. Adesso la società sappiamo che insomma, è in mano a questa banca in attesa di cessioni, in attesa di nuovi asset di proprietà. Ma certo che una società in queste condizioni si possa permettere un'operazione come quella di Burdisso già è significativo. Quella di Borriello, qualcuno ha fatto i conti sommando l'onere per il giocatore all'onere contrattuale per 4 anni ed è arrivata a 36 e fischia milioni di euro. Come è possibile da una parte e è giusta quest'ottica di lettura dall'altra? Beh, in un mercato dominato dal fair play finanziario, da questo nuovo concetto che è la bandiera della UEFA e che è la bandiera del nuovo millennio, almeno così si augura Michel Platini, non poteva che essere una banca protagonista di una parte importante del mercato. La caratteristica delle operazioni condotte dalla Roma, che vanno appunto viste nell'ambito della procedura che porterà poi all'acquisto del club da parte di nuovi soci, è quella di un intervento, come dire, nel merito da parte dei vertici di Unicredit, mentre prima le banche intervenivano per finanziare con fideiussioni eventuali campagne acquiste, qui c'è stata evidentemente una valutazione, ripeto, anche nel merito da parte di chi è delegato a gestire i rapporti con i vertici della società, appunto perché le due operazioni principali, cioè appunto Burdisso e Borriello, sono state considerate e analizzate anche dal punto di vista della valorizzazione dell'asset Roma. Chiaramente una squadra che dovrà partecipare alla Champions League oltre che al campionato e che potrà quindi esibirsi su palcoscenici internazionali, se renderà dal punto di vista sportivo, e questi acquisti vanno visti in quest'ottica, acquisirà anche un maggior valore ai fini della vendita. Quindi sono queste le valutazioni che da parte di Unicredit ci sono state e evidentemente hanno considerato Borriello un buon investimento e i suoi gol un utile volano per la crescita patrimoniale del club. Sì, hai detto bene, è la prima volta comunque che accade una cosa del genere. Non... Almeno a questi livelli sì. Certamente. Ed è sì. Una novità appunto che va vista nell'ottica del nuovo calcio finanziario. Parliamo della concorrenza. La concorrenza vuol dire Milano Finanza in questo caso, cioè l'altro quotidiano economico italiano. Il titolo di stamane su questa vicenda è "Unicredit commissaria alla Roma", e cioè la banca ha garantito i fondi per l'acquisto di Borriello in questa ottica, no, di migliorare le condizioni di un asset, ma vuole un super controllore dei conti, e cioè in cambio, in pratica, inserirebbe, io non so dire se a fianco di Rosella Sensi, di sopra, di sotto, di lato, come, ma ci sarebbe questa nuova configurazione. È un'ipotesi realistica per il tuo? Ma può esserla soprattutto nell'ottica della quotazione in borsa del club giallorosso. È chiaro che in una situazione comunque delicata dal punto di vista finanziario, con una procedura il cui esito finale è la vendita, come abbiamo detto, del club al miglior acquirente, si spera in maniera tale che Unicredit possa rientrare del suo credito, chiaramente una garanzia ulteriore dal punto di vista contabile può rafforzare la credibilità dei bilanci della Roma, appunto, agli occhi degli acquirenti e del mercato. Credo che comunque i controlli ci siano, in particolare appunto sulle società quotate, e da questo punto di vista, insomma, di commissariamento si possa parlare fino a un certo punto. Leggo molti messaggi che entrano nel merito tecnico della campagna acquisti. Io credo che su questo abbiamo tutto l'anno, no? Poi per parlarne e anche per riscontrare in pratica la bontà di tutte queste operazioni. Oggi mi sembrava decisamente che la chiave di lettura vera fosse questa, perché tutto è molto sorprendente. Allora, abbiamo parlato di un aspetto, ma parliamo di tanti altri. Parliamo di questa nuova formula del prestito non più con diritto di riscatto ma con dovere di riscatto, che mi sembra sia quello che è uscito da questo mercato e che è stato applicato universalmente, citando appunto rassegna stampa di stamane. Fabrizio Bocca su Repubblica scrive, per l'appunto, la parola chiave è prestito con obbligo di riscatto. Se non hai un euro risolve tutto. Ibrahimovic arriva al Milan quest'anno gratis e dal prossimo tre rate annuali da 8 milioni. Boriello alla Roma quest'anno gratis e poi tre rate annuali da poco più di 3. È come andare in concessionario e uscire con la macchina nuova da pagare a dicembre. È centrato questo parallelo? E soprattutto come nasce una formula e come si estende universalmente una formula come questa? Allora, cerchiamo di fare un passo alla volta, anche perché tra l'altro va sottolineato come inizialmente credo a giugno, ancora prima del mondiale, quando queste operazioni sono state fatte, sì, anche sui giornali si parlava allegramente di prestito con obbligo di riscatto, usando una formula che dal punto di vista giuridico è molto complessa, soprattutto dal punto di nell'ottica dei bilanci e delle spese, dei costi che vanno iscritti i bilanci, ma poi questo faremo un passo ulteriore. A un certo punto però questa indicazione prestito con obbligo di riscatto è sparita dalle agenzie e dai giornali, evidentemente è passata una velina e si è ritornata alla formula più consueta, prestito con diritto di riscatto. Si è detto però che tra le società ci sarebbe poi una sorta di lettera di accompagnamento, di gentleman agreements per far sì che questo diritto in realtà poi si traduca in un obbligo e che alla fine dell'anno la società che ha preso il calciatore e che ne ha utilizzato le prestazioni in quell'anno poi non si tiri indietro e lo acquisti e versi la parte abbondante del prezzo. Di fatto ci troviamo di fronte a strutture finanziarie e contrattuali che venivano utilizzate anche in passato, ma che quest'anno sono state appunto diffuse a tutti i livelli del calciomercato e tutte le operazioni principali hanno visto questa formula del leasing del calciatore. Certo. Lo prendo, lo utilizzo, pago una piccola quota o addirittura lo uso gratuitamente per un anno e poi verserò il prezzo. Con calma comincerò a pagarlo a rate. Tutto questo nell'ottica evidentemente di abbassare i costi della gestione, di abbassare i debiti, di tenere i bilanci in linea di galleggiamento, anche perché il fair play finanziario di cui abbiamo detto qui da molti mesi e scritto sul quotidiano, è vero che si applicherà dalla stagione 2013-2014, ma di fatto è già una realtà con cui tutte le società italiane e non solo italiane devono convivere. A luglio il Mallorca, per esempio, che in Spagna aveva conquistato sul campo il diritto a partecipare all'Europa League, è stato estromesso proprio per debiti, certo, dalla Federazione Spagnola, dal quarto turno di Europa League, è subentrato il Villarreal e quindi insomma è qualcosa di serio con cui bisogna fare i conti. E in compenso mi pare invece che altrettanta serietà non abbia applicato il Barcellona. Questa perlomeno è una mia sensazione che verifichiamo tra poco dopo l'intervallo. Non vi dico i messaggi che sono già arrivati, ve ne dico uno perché è carino. Daniele, che si firma Daniele il camionista e che è un habitué di questa ora, scrive: buongiorno, dopo la chiusura del mercato la Juve ha cambiato la pubblicità da accendi una stella a accendi un cero. Si diceva del Barcellona, scusi, io salto un po' di palo in frasca, però tu hai seguito tutta questa campagna acquisti sul tamburo, dalla scrivania al secondo piano del Sole, e quindi sei ampiamente documentato. Io vedevo, leggevo e sentivo cose, visto che fino a ieri fortunatamente ero in vacanza, che non mi tornavano. Allora, te ne dico due. Mi torna pochino, per esempio, che il Manchester City non realizzi, poi se mi esprime propriamente perdonami, nel giro di 2 anni una minusvalenza da 42 a 18 milioni. Pagò Robinho 42, si accontenta di 18. Però ci sono di mezzo gli sceicchi, insomma, no, nel mio immaginario vada, transeat, come dicevano i latini. Che il Barcellona, invece, che se non sbaglio non più tardi di 2 mesi fa ha dovuto ricorrere a un prestito obbligazionario, non lo so, poi tu mi preciserai meglio, molto cospicuo, per far fronte alla gestione ordinaria, per sanare situazioni, per comprare Viglia e Mascherano, poi accetti o subisca una svalutazione a bilancio, evidentemente, una minusvalenza da 70 milioni a 24, sinceramente mi torna meno. Quindi, a parte che il Barça in 2 anni ha fatto prima la felicità dell'Inter valutando 70 milioni di Ibrahimovic, poi quella del Milan regalandoglielo per 24, tutto questo mi torna pochissimo. Dal punto di vista economico non c'è dubbio che ci sia qualcosa di strano, di non spiegabile secondo una logica ordinaria in queste operazioni. Ora, c'è da dire che considerando l'ingaggio che aveva Ibrahimovic al Barcellona e l'ingaggio che aveva Robinho al Manchester, le squadre vendendoli risparmiano su e non poco. Se calcoliamo, appunto, si è parlato di 12 milioni per l'ingaggio annuale per Ibrahimovic, consideriamo qualcosina in più per quanto riguarda le imposte che comunque il Barcellona ha tenuto a pagare. Sì, no, che non è la pressione fiscale italiana, infatti italiana, ma di questo comunque, si lamenta sempre il Milan, ma è comunque, diciamo, quella aliquota agevolata è stata sostanzialmente abolita. Sì. Non si arriva ai livelli della fiscalità italiana, ma almeno un terzo in più bisogna calcolarlo, quindi diciamo parliamo di 15, 16, 17 milioni all'anno che il Barcellona evidentemente risparmia. Questo può aver influito evidentemente, certo, nella valutazione. È chiaro che quando il Barcellona ha acquistato Ibrahimovic pagandolo 49 milioni più Eto'o, ora la valutazione di Eto'o può essere abbastanza discrezionale, ma almeno non è sotto i 20 milioni, e oggi accetta in cambio 24, la metà senza Eto'o, è chiaro che ho avvalutato essenziale quel risparmio di ingaggio per Ibrahimovic, magari lo ha spalmato sui due nuovi acquisti, oppure evidentemente si è creata una situazione tale per cui si è preferito mandar via Ibrahimovic e conservare l'equilibrio della squadra, e quindi in questo modo si è ritenuto più facile di poter ottenere nuovi successi e quindi nuovi introiti, oppure c'è qualcosa che non quadra, ma evidentemente noi ci muoviamo su quello che sono le cifre ufficiali comunicate dalle società e non possiamo che avanzare dubbi da sotto il profilo logico. Ma insomma, se tu dovessi fare come Muzio Scevola e metterci la manina su queste cifre, io avrei molti dubbi a credere che le cose siano andate effettivamente così come, e non solo su Ibra, e non solo su Ibra. È la stessa riduzione dell'ingaggio che Mino Raiola e Ibrahimovic hanno accettato in qualche modo per passare al Milan, mi sembrano poco credibili, conoscendo le vecchie formule Lentini eventualmente, ma insomma già quello mi do... Io quello che penso è che, e ti domando, il Barcellona, adesso stiamo parlando del Barcellona, iscrive a bilancio nel bilancio passato, appunto, supponiamo 70 per per l'acquisto di Ibra. E adesso davvero ci scrive 24. E bisognerà poi vedere l'anno prossimo il bilancio del Barcellona e vedere cosa ci andranno a scrivere e se chi è deputato a controllare quei bilanci riterrà plausibile quel tipo di costo di minusvalenza iscritta. Un'altra domanda, subito dopo un altro juventino scatenato è Luciano che scrive da Biella e dice: sto già rimpiangendo Secco e Blanc, a parer mio Marotte e Del Neri stanno affossando ancora di più il Titanic bianconero. Ma se Ibra si infortuna gravemente, scrive Alessandro da Udine, nel primo anno cosa succede? E cioè, in termini giuridici, su chi grava l'impossibilità sopravvenuta della prestazione? Bella domanda. È chiaro, che vale è chiaro. Per tutti, Boriello. In tutti questi casi c'è un parametro che è quello del leasing delle auto. Facciamo così, sì, usiamo certo. Questo parametro ed è chiaro che chi usa e chi ha nella sua disponibilità il bene, in questo caso il calciatore, dovrebbe anche essere chiamato a risponderne di tutte le conseguenze giuridiche ed economiche. E con questo poi, se vuoi, dopo facciamo anche un discorso sui bilanci e sulla convenienza poi di queste operazioni ai fini del bilancio, che anche su questo insomma qualche dubbio ce l'ho, e anche gli esperti insomma che ho consultato, gli esperti di bilancio che ho consultato, hanno analoghi dubbi. Hanno analoghi dubbi e chiaramente c'è un problema ed è quello che chi si trova ad acquisire queste prestazioni, così ce lo facciamo subito sul discorso, ci togliamo il dente, evidentemente acquisisce le prestazioni di un calciatore, e anche se ha poi questo diritto / obbligo di riscattare il calciatore, in qualche modo ha fatto una spesa che va valutata anno per anno, ma che va scritta subito a bilancio come un debito. Si dice appunto l'Inter non ha fatto acquisti, il Milan ne ha fatti, non pagherà nulla il primo anno per Ibrahimovic e poi dovrà pagare 8 milioni all'anno. È vero che dovrà pagare 8 milioni all'anno, però i 24 milioni, supposto che siano tali e reali, sono un debito che dovrebbero essere iscritti subito, dovrebbe essere iscritto subito a bilancio, perché è un debito che la società ha acquisito nei confronti del Barcellona e che dunque qualche effetto immediato sul bilancio deve averlo, così come in tutti gli altri casi, per tutte le altre società che hanno adoperato queste formule. È un forse dubbio, si può contestare, diventa opinabile, diventerà un discorso fra commercialisti e consulenti tributari, ma insomma qualche ragionevole dubbio sulla linearità e sui risparmi nell'immediato sui bilanci di queste operazioni, qualche dubbio va avanzato. C'è un amico, già un ascoltatore già collegato alla provincia di Bari, però non volevo perdere il filo di questo ragionamento. Tu hai detto, ho consultato anche degli esperti, a parer mio, anzi a parer nostro, queste spese, chiamiamole così, vanno iscritte subito a bilancio, che se ne dica sul fatto che il prestito del primo anno è gratuito. Ti domando allora, può essere questa la ragione per cui l'Inter non ha effettuato alcuna operazione in entrata? Cioè, era vero allora, probabilmente, non so, ricavo io, che la situazione era tale che richiedeva immissione di capitale, insomma, cioè ripulitura di bilancio attraverso cessioni e non nuove acquisizioni, perlomeno in questo momento. Io penso che dopo anni in cui la dirigenza dell'Inter e in particolare Massimo Moratti hanno dato, se vogliamo, il cattivo esempio con gestioni appesantite dai debiti e rossi che hanno superato di gran lunga 100 milioni all'anno, questa volta hanno invece gestito, devo dire, in maniera assolutamente condivisibile il mercato. L'Inter ha incassato e incasserà molti soldi per i successi ottenuti sul campo, ha guadagnato dalle cessioni 2 anni fa di Ibrahimovic e ottime plusvalenze per quanto riguarda invece la cessione di Balotelli, che era un prodotto plusvalenza totale del vivaio, e a questo punto si prepara a rimettersi in carreggiata nell'ottica, ripeto, del fair play finanziario, che è quello che va visto. Se si considera che il fair play finanziario prevede una spesa, un rosso massimo tollerabile di 5 milioni che nei primi tre anni di applicazione è di 45 milioni, che l'Inter ne aveva di 150 milioni di rosso soltanto in un anno, ne accumulava negli ultimi anni. È chiaro, ecco, che, spiegata. È chiaro che o valeva la pena l'operazione di mercato, certo, oppure è stato meglio, diciamo, risparmiare, mettere fine in cascina e mettersi al passo con le nuove regole contabili e finanziarie. E pazienza per Benitez, che è il primo allenatore dell'era Moratti a cui non viene acquistato neanche un ragazzo da primavera, sì, per la verità, ma insomma certamente non Quaresma, ecco, per capirci. Francesco ha chiamato la provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno, salve, una domanda. Dica. Visto che si parla di bilanci, volevo sapere quanto pagano di stipendi le quattro squadre, cioè Roma, Milan, Inter e Juve, perché secondo me è quello che fa la differenza reale sui bilanci, cioè gli stipendi pagati ai calciatori. Sì. Grazie. Grazie a lei. Adesso non so se abbiamo sotto il naso le cifre esatte. Le cifre, Marco, esatte per ciascuna società non le abbiamo. C'è da fare però questo discorso, che a differenza degli altri club europei, la percentuale di spese per ingaggi pagati dai club di Serie A va ben oltre il 60% e in qualche caso arriva anche all'80-90% del fatturato. Di conseguenza si tratta di spese non più sostenibili e i risparmi che per esempio otterrà il Milan l'anno prossimo, quando verranno a scadere tutta una serie di contratti molto onerosi che sono stati sottoscritti quando le vacche erano grasse, potrà evidentemente contribuire a facilitare la situazione economica abbassando quel tetto degli ingaggi che per una gestione corretta e lineare dei club non dovrebbe mai superare il 40-50%, così come avviene nei club tedeschi, che per esempio sono quelli che finanziariamente stanno meglio e guardando una partita della Bundesliga, anche la salute che è possibile verificare sugli spalti, certo, l'attenzione e il successo che quel calcio sta ottenendo sono una testimonianza tangibile che preservare i conti fa bene a tutto il movimento. Oh, siamo vicini all'intervallo per i mercati. Volevo segnalarvi che poi verso la chiusura della trasmissione ci sarà un interessante barcord, perché la data del 1° settembre è una data ricchissima di avvenimenti e un personaggio che ha firmato una grande impresa il 1° settembre di tanti anni fa interverrà per raccontarcela. Volevo anche ricordarvi che potete intervenire a vostra volta in diretta all'800 24 0024 per domande e curiosità sull'argomento di massima di oggi. Marco Beninazzo ha ancora in serbo qualche tonnellata di curiosità, tipo l'acquisto per conto terzi, che è il caso di Boateng, che è un'altra di queste novità di questo calciomercato estivo. Tutto questo dopo l'aggiornamento dai mercati. Due notizie rapidamente. La prima è che da pochi minuti Malesani è iniziata la cerimonia di presentazione ufficiale di Malesani come nuovo allenatore del Bologna al centro sportivo di Casteldebole. Malesani ha 56 anni e in carriera ha allenato Chievo, Fiorentina, Parma, Verona, Panathinaikos, Udinese, Empoli e Siena. Cassano ha disputato stamane la partitella d'allenamento in vista di Estonia-Italia di dopodomani sera, ma insomma su questo argomento sarà poi la puntata di domani, la vigilia della partita, il momento deputato. Tornerei da Marco Bellinazzo perché qualche curiosità è rimasta. La prima è questo acquisto per conto terzi, il caso di Boateng, ricordalo rapidamente e dacci la tua chiave di lettura. No, mi aveva colpito prima che poi il Milan passasse ai grandi acquisti dell'ultima ora, la campagna acquisti appunto che stava conducendo la società rossonera, votata prevalentemente al risparmio, al contenimento dei costi. E mi aveva colpito appunto questa operazione dichiarata fin dall'inizio, per cui Boateng appunto è stato acquistato dal Genoa e girato in prestito al Milan. Ora, al di là della curiosità che fosse il Genoa appunto a prestare giocatori al Milan, evidentemente colpiva questo modello contrattuale, sempre per evitare di pesare sui bilanci garantito, come dire, da un acquisto fatto da una società che si gravava del prezzo del cartellino e che poi girava in prestito gratuito, salvo poi il diritto barra obbligo di riscatto con tutti i dubbi che abbiamo detto prima. Per garantire appunto la competitività di un altro club. Insomma, quest'asse di ferro Genoa-Milan, e poi sono state le protagoniste, se vuoi, di questo mercato, insomma. Sì, che poi è continuato ieri con Calazze, che probabilmente avrà anche altri sbocchi in futuro. Mirko da Bologna osserva: sentendovi parlare, penso però che la Juve abbia fatto un buon mercato, essendosi liberata di contratti molto pesanti per giocatori mediocri e poco costosi. Allora, sui poco costosi intende i nuovi, e lì io avrei un po' di perplessità, perché la Juve ha fatto un mercato di quantità anziché di qualità, e secondo me quando si compra si guarda il prezzo, ma si guarda anche la qualità di quello che ti porti in casa. E ripeto, a parere mio è stata privilegiata la quantità, e non riesco a capire perché. È vero però che essersi liberata, tu parlavi prima in chiave Barcellona di cosa vuol dire non avere più 12 milioni l'anno netti da pagare per Ibra, e questo vale per cifre minori, ma mica poi di tanto, per Camoranesi, per Trezeguet, per Diego e per altri. Insomma. Da questo punto di vista sicuramente la Juve si è mossa bene, ha incamerato molte, se non plusvalenze, ma in ogni caso ha condotto operazioni che le permetteranno di risparmiare ingaggi molto alti, e ha acquistato giocatori, insomma, con ingaggi relativamente più bassi, insomma, questo, sulla qualità dei quali non entro nel merito. No, poi questo avremo tempo di valutarlo, e non è certamente una giornata di campionato che può dire se il tale o il tal'altro sono la panacea, oppure se sono la prosecuzione di un'epoca infelice. Raffaele in linea da Como, buongiorno. Buongiorno, ascolti, io volevo chiedere questo, le società di calcio attualmente, per bloccare, diciamo così, i calciatori, fanno i contratti, ogni anno rinnovano a 5 anni, perché altrimenti i calciatori sono, da quello che ho capito, svincolati e possono andarsene in qualunque momento, o quasi, ma non si potrebbe fare una regola per cui almeno le società abbiano la possibilità di tagliare i calciatori che non hanno un rendimento sufficiente? Cioè, nel senso, il calciatore se ne può andare quando vuole, la società anche per un giocatore che non gioca più deve pagare per 3 o 4 anni ancora lo stipendio. Mi sembra che ci sia una discrepanza. 3-4 anni ancora, Marco, corrisponde? Sì, sì, c'è questa pratica di cui per esempio è rimasto vittima, tra virgolette, il Napoli, che quando ha ripreso l'attività con la proprietà De Laurentiis ha scelto questa politica, cioè contratti quinquennali, e si è ritrovata però in Serie A ad avere tutta una serie di contratti con moltissimi giocatori delle serie inferiori, o comunque che non venivano giudicati più idonei per la Serie A, ha dovuto continuare a pagarli, se non tentare anno per anno di piazzarli da qualche parte. E l'ultima campagna acquisti del Napoli, devo dire, è stata caratterizzata da un intenso sfoltimento della rosa, con risoluzioni contrattuali, prestiti e tentativi di liberarsi di questi ingaggi onerosi, anche perché poi con ingaggi onerosi diventa anche difficile cedere anche in prestito, certo, semplicemente questi calciatori. E quindi buone uscite, bonus e una tantum per risparmiare in futuro, quindi scrivere subito questi costi in bilancio, però alleggerire i bilanci per il futuro. Faccio una parentesi tecnica, che visto che insomma l'accento tradisce evidentemente, e il tuo accento è un'anticamera di passione. Se mi pare aver capito, sempre ripeto da fuori, che se è stato un problema Guardiola Ibrahimovic alla base di questo divorzio improvviso, è stato un problema Mazzarri Quagliarella, quello alla base del passaggio di Quagliarella alla Juve. Prevalentemente credo di sì, ma credo che appunto Mazzarri ha sostanzialmente azzerato quella che era stata la campagna acquisti voluta da Donadoni. Certo. Non a caso i due giocatori tecnicamente più importanti, quelli che erano stati della precedente campagna acquisti, cioè Cigarini e Quagliarella, sono stati venduti. Vedremo con quale esito alla fine del campionato. Vedremo con quale esito. Cosimo ha chiamato da Matera, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta, complimenti e bentornato dalle vacanze. Grazie. Innanzitutto. Allora, io volevo fare prima una considerazione. Sono dottore commercialista e confermo che vi è l'obbligo di scrivere questi obblighi di acquisto questi obblighi, questi prezzi in bilancio, questi prestiti con obbligo di acquisto, anzi addirittura qualora vi fosse un vi è il diritto di riscatto, dovrebbero accantonare delle somme nell'ipotesi in cui si concretizzi. Detto questo, chiedo scusa per la saccenza. No, no, quale saccenza? A parte che il mio amico Bellinazzo, cioè, sorride largo come cosa, perché è sempre una rassicurazione in più, no? Perché stiamo muovendoci su una materia, per carità, che voi conoscete, che lei in particolare conosce a menadito, ma che è applicata al calcio, sa com'è, tutto quello che arriva nei dintorni del calcio poi diventa opinabile quando non saponoso, no? Quindi lei invece ci conferma e le siamo grati. Ripeto, importante anche quanto c'è il diritto di riscatto, loro devono iscrivere, accantonare delle somme perché si potrebbe concretizzare l'acquisto. Sì. Detto questo, io sono un tifoso milanista e con l'acquisto di Robinho come tipologia di giocatore sono convinto che sia una necessità, nel senso che un terzo giocatore sulle fasce, visto l'infortunio di Pato e Ronaldinho tra un po' sparirà, serviva. Ma mi chiedo e le chiedo, ma proprio Robinho, un ex del Cagliari che giocava bene largo sulle fasce e faceva gol, non poteva essere preso da Allegri? La ringrazio. Un ex del Cagliari, ah, sa che secondo me ieri un grande affare, naturalmente sempre grande in proporzione, no? a quello che paghi e a quello che ti l'ha fatto il Lecce con Jeddah. Lei ha parlato di Cagliari e mi ha fatto tornare in mente questa riflessione che ho fatto ieri sera vedendo che mi pare il Lecce ha speso 1 milione di euro, qualcosa del genere, per Jeddah. Ora, Jeddah non è Robinho. Perlomeno o forse non ha mai avuto l'impressione, la possibilità di poter, no? Di potersela giocare alla Robinho in qualche vetrina cosa. Lei dice un giocatore di fascia è necessario, sì, io invece non vorrei che Robinho fosse l'orpello, che fosse la cosa in più che magari rischia di complicare. Sulla carta no, in teoria no, più siamo meglio stiamo, no? E poi ormai una volta rilanciato l'entusiasmo, rilanciata la voglia soprattutto del presidente, no? Di tornare competitivo, tutto questo, anche Robinho ha un senso. Credo però invece che potrebbe essere così una piccola complicazione. Lei dice un giocatore cagliaritano di fascia, cioè, ne aveva tanti effettivamente Allegri, e forse poteva bastare Jeddah come alternativa, anche perché non si sa se poi Robinho effettivamente Ronaldinho resterà o se ne andrà. Michele ha chiamato da Roma, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io ho due, tra l'altro uno, io sono tifoso della Juve, per cui parlo dei casi che conosco meglio. Si parla del fatto che Diego è stato acquistato a 25 milioni l'anno scorso, rivenduto a 15 quest'anno. Sì. Ho sentito dire una minusvalenza di 10 milioni, però mi sembra di capire che tecnicamente la minusvalenza è, supponiamo che il contratto fosse a 5 anni, quindi di soli 5 milioni, perché comunque c'è stata già una parte che è stata ammortizzata, per cui l'effettiva plusvalenza si riduce a 5. Uno. Due, una curiosità che ho sempre avuto: non potrebbe essere il caso, non ci potrebbe essere il caso cambiare l'oggetto sociale proprio delle società e inserire anche compravendita di giocatori, di modo che le plusvalenze non fossero più considerate come proventi straordinari, ma come proventi di gestione caratteristica, migliorando anche quelli che sono i dati su cui si basano le valutazioni dei bilanci della società. Erano due curiosità di questo tipo. Grazie Michele. Grazie a lei. Beh, i calcoli con quelle cifre, insomma, erano corretti, insomma, milione più, milione meno. Chiaro che quando si è sfruttato già per un anno un calciatore, il prezzo che si è pagato in qualche modo va considerato in, certo, abbattuto, e in più c'è evidentemente da considerare sulla minusvalenza realizzata anche le nuove condizioni del mercato, ma questo in bilancio poi vengono iscritte. Come le macchine, l'hai detto prima, esce il modello nuovo, no? Evidentemente. E poi evidentemente, comunque, quando hai fatto i primi 10 chilometri la macchina ha già perso quel tot, ecco, di valore, eccetera. Io personalmente non volevo continuare su questa metafora, no, per rispetto, d'accordo, dei calciatori. Infatti, ma visto questo che è l'uovo della strada che scade, no? E so io, però insomma, mi pare di capire che siamo lì, insomma. Per fare un accenno alla seconda valutazione, è chiaro che all'inizio degli anni 90, quando i club calcistici sono stati trasformati in società per azioni, viaggiava in una situazione economica che era quella appunto di 20 anni fa, si sta pensando, anche per meglio dire, a una rivisitazione della normativa sulle società calcistiche, sulle società sportive che fanno sport a livello professionale. professionistico, è uno dei punti nell'agenda di Beretta, che è il nuovo presidente della Lega, della Confindustria, del calcio, e evidentemente si potrà, a mio avviso, valutare anche una proposta come quella che ci è stata appena spiegata. Insomma. Di quel genere. Vediamo se c'è tempo rapidamente per Alessandro da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sono anch'io abbastanza competente in materia di principi contabili. Volevo dare una piccola ulteriore chiave di lettura. Mentre le società quotate sono tenute a fare i bilanci secondo i principi internazionali, che sono molto rigorosi su questo genere di contratti e hanno una visione sostanziale, i principi contabili italiani hanno ancora un'interpretazione più legalistica legata alla forma contrattuale, e quindi ci potrebbe essere una disparità di rappresentazione, posto che bisogna guardare i contratti nel dettaglio, nella rappresentazione della stessa operazione in due società simili ma con principi diversi. Quindi bisogna leggere chi sono le società quotate e quali non quotate. Beh, è chiaro che si potrà a questo punto creare una disparità tra Juventus, Lazio e Roma, che sono quotate e sono tenute ad applicare gli AS, che significa sostanzialmente guardare alla sostanza delle operazioni al di là di quella che è la forma con cui vengono presentate. Certo, ci potrà essere qualche margine di interpretazione in più sulle altre società che invece applicano i principi civilistici, ma anche su questo dovrà vigilare la Lega e la Covisoc, che controllerà i bilanci. Allora, domanda finale al termine di questa lunga disamina economico-finanziaria sull'inedito calciomercato che si è svolto in Italia in questa estate. Qual è stata, a parere di Marco Bellinazzo, l'operazione più felice, più vantaggiosa? Ma è chiaro che è una valutazione assolutamente personale, che qui entriamo in un'orbita di assoluta discrezionalità. Però è facile dire che l'affare Ibrahimovic è l'affare del secolo ed è stata una grande operazione, indubbiamente, viste le cifre. Ripeto, se queste sono le cifre reali, e il Milan ha fatto una grossissima operazione, non grande, però non sottovaluterei nella considerazione anche la cessione di Bocchetti da parte del Genoa a Rubi Kazan per 11 milioni. Ah, è vero, Bocchetti 11 milioni, effettivamente non è un brutto. Con Bocchetti 11 milioni, Ibrahimovic 24, insomma, fatte le dovute proporzioni, tutte le tare del caso, insomma, preziosi, ci ha visto ancora giusto, evidentemente. Marco, oggi la Gazzetta è uscita con tutti i saldi attivi e passivi di questa campagna acquisti. Si va dal saldo inedito di più 48,8 dell'Inter, perché credo che questo non era mai accaduto nell'epoca Moratti, ma non era mai accaduto il segno più, indipendentemente dall'entità. Si arriva al meno 20,75 del Bologna, mi pare rivedere, meno 19,65 della Juventus, mi pare siano i due estremi. Anche il Sole ha in programma un prospetto del genere, così articolato? Ci proveremo, anche perché bisognerebbe poi leggere tutte queste cifre alla luce dei dubbi che abbiamo espresso, quindi contabilizzare le vere uscite, i veri guadagni, insomma, proveremo a farlo per evitare, tra l'altro, che si scatenino le ire proveremo a farlo pensando per l'appunto che il prestito gratuito del primo anno, tanto gratuito non può essere. Grazie a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Non siamo lontani dalla chiusura, però c'è il tempo per ricordare che il primo settembre è una giornata particolarmente gloriosa nella storia dello sport italiano. Pensate che il primo settembre del 60 accaddero due avvenimenti, uno che riguardava l'Italia solo da un punto di vista geografico, perché quel pomeriggio si corsero i 100 metri all'Olimpiade di Roma, e Armin Ari, per la prima volta un bianco, vinse la finale dei 100, precedendo di due giorni la prima vittoria di un bianco italiano, in questo caso Livio Berruti, nella finale dei 200. La sera a San Siro Duilio Loi conquistò il titolo mondiale dei medi contro Ortiz davanti a 61.900 spettatori a San Siro, e i 120 milioni di incasso di quella sera, che grosso modo, Marco correggimi se sbaglio, sono 1,5 milioni circa di euro di oggi, più o meno, forse più che meno, rappresentano tuttora il principale incasso per un evento pugilistico mai realizzato in Italia. Questo era il 60. Il primo settembre del 68 ci fu invece la grande impresa di un corridore italiano che vinse a Imola per distacco il campionato del mondo di ciclismo. Quel corridore non si chiama, si chiama Vittorio Adorni. Buongiorno Vittorio. Buongiorno. Buongiorno. Senti, sono passati 42 anni da quella impresa. Purtroppo non possiamo chiedere a lui, da due anni a questa parte, non glielo possiamo più chiedere, che cosa, di raccontarci quella sua impresa di San Siro quella sera. Possiamo per fortuna chiedere a te ancora per molto tempo, che cosa ricordi, insomma, che cosa è rimasto di quella vittoria per distacco sul circuito di Imola? Ma è rimasto, direi, un grande segno nella mia vita, soprattutto vincere un campionato del mondo nella mia terra, Imola, io sono di Parma, è una cosa eccezionale, ma soprattutto vincere un campionato del mondo e poi come l'ho vinto io, perché è nata una fuga a 235 km all'arrivo, la corsa era 270, quindi era una cosa da pazzi allora fare cose del genere. Sono andato in fuga con Valloglie e altri 5 direi ragazzi e alla fine a 90 km d'arrivo li ho staccati tutti, ho fatto gli ultimi 90 km da solo. Cioè, una cosa veramente da matti, io non ci credevo, non avrei mai creduto di arrivare all'arrivo. Solo che non sono solo arrivato all'arrivo, ma ho vinto con quasi 10 minuti di vantaggio, quindi un'impresa, una cosa mai successa nel mondiale, insomma. E mai successa in quelle proporzioni. Io, che allora ero un grande appassionato di ciclismo, quel giorno rivissi, e più in grande, l'impresa di 10 anni prima di Baldini a Reims, perché Baldini, che era scappato con Coppi, mi pare addirittura. No, era scappato con Gismon, Bobé, con Mancini e Vorting. Bravo, vabbè. Comunque, poco alla volta li aveva poi staccati tutti, ma insomma all'arrivo non aveva certamente il vantaggio abissale che avevi sommato tu. Chi c'era in squadra con te quel giorno e com'era il piano? Cioè la tua, perché tu eri Vittorio Adorni, non era la fuga del gregario all'inizio. No. Com'era il piano, la strategia? Chi era il CT? La strategia era Mario Ricci, era il commissario tecnico. Sì. E disse la sera che io ero il capitano in corsa della squadra, quindi di gestire, di stare attenti e gestire la corsa. Poi c'era Gimondi, c'era Motta, c'era Taccone, Dancelli, Bitossi, c'erano tutti i migliori di allora. Bella squadra. Grande squadra. E alla fine nacque una fuga dopo il secondo giro, erano in fuga 17 corridori, tra i quali c'era dentro anche Merckx e Gimondi, quindi noi dietro eravamo tranquilli, però nella vita ci vuole sempre anche, diciamo, la fortuna, in quel caso da parte mia. Mancavano i francesi e anche Thiel con la sua squadra. I francesi fecero una grande tirata, andarono a inseguire quei sulla salita dei Tremonti, li prese il gruppo che era in fuga, che avevano più di un minuto di vantaggio. Io andai davanti per guardare la situazione, perché in fondo avevo un incarico di cercare di controllare. Ho guardato, c'era via un corridore che aveva 200 metri, un altro a 100, poi mi sono girato, ho guardato a destra, c'era Van Looy, io gli ho fatto come un segno a Van Looy per dire andiamo, Van Looy è scattato, ho seguito Van Looy e ci siamo trovati in 7 in fuga. Dopo alcuni chilometri gli ho detto: Rick, ma mancano 230 km d'arrivo, cosa facciamo? Cioè, io e te siamo due di una certa età, perché in fondo io avevo 31 anni, Van Looy aveva qualcosa più di me. Più di te. Guarda, ma hai paura? No, allora andiamo. Abbiamo cominciato a tirare e ci siamo entrati in fuga. Poi dietro c'è stata, credo forse, il primo anno che l'Italia, la squadra italiana ha fatto un grande gioco di squadra cercando di tenere a freno Merckx, perché forse Merckx era praticamente l'avversario più forte da attaccare, aveva vinto il Giro d'Italia, certo. Era l'uomo emergente, il grande. E infatti Gimondi, Taccone e gli altri lo rintuzzarono in tutti gli attacchi che hanno fatto e io me ne andai poi a 90 km d'arrivo e vinsi il mondiale, una cosa bellissima. E noi siamo felici che tu 42 anni dopo lo abbia revocato con noi con questa partecipazione. Grazie Vittorio. Grazie a te, grazie a voi tutti. Era Vittorio Adorni, campione del mondo a Imola nel 1968, quando il ciclismo, consentitemelo, aveva tutto un altro sapore, un'altra fragranza. Non siamo lontani dalla conclusione di questa puntata, quindi sapete che durante quest'estate, in questo periodo, a questo punto scatta una sigla particolare. Eni vi presenta Sport e Motori. Allora, la notizia di oggi è che, beh, insomma, non è proprio di oggi, ma è un rilancio di oggi, che il Gran Premio a Roma, il Gran Premio di Formula 1, si farà. Non ci sono ancora certezze, ma è una promessa molto solida, così stamane il sindaco di Roma, durante la trasmissione Rai 1 Mattina, a chi gli ha domandato se la capitale avrà davvero il suo Gran Premio di Formula 1. Alemanno ha poi specificato che si tratterebbe del secondo Gran Premio, perché non verrà in ogni caso preso il posto di quello di Monza. È una situazione in divenire che stamane ha avuto questo piccolo aggiornamento. A proposito di Misano, del circuito di Misano, una voce, quella niente meno che di Valentino Rossi. Doveva essere la gara del mio rientro a Misano, quindi questo è una, cioè, non bisogna dimenticarselo. Ho fatto bene a rientrare prima, perché così arrivo a Misano un pochino più in forma, naturalmente. E purtroppo c'è neanche una settimana, quindi non è che sarò tanto più in forma di così. Però Misano è una pista bella ed è una pista anche dove di solito la nostra M1 va forte, e poi ci sarà un grande tifo, quindi invito tutti a Misano la settimana prossima a vedere la gara, mi raccomando, ma anche a Tavuglia durante il weekend, perché ci saranno un sacco di cose, un sacco di feste divertenti da venerdì, e quindi spero di avere un sacco di tifosi come è successo anche negli ultimi 2 anni, e cercheremo di fare meglio. Si è parlato, vi dicevo prima, del circuito del Gran Premio di Roma. Biaggi, a proposito di Superbike, speriamo che anche qui, Biaggi era al Mugello stamane, che anche qui presto si corra la Superbike. Credo, ha detto ancora Max Biaggi, ci sarebbe una grande partecipazione, perché gli spettatori hanno grandi visuali, grandi possibilità di assistere davvero ad una grande gara. Sigla. No, niente sigla, domando scusa, non sono molto pratico dopo lunghe vacanze. Allora c'è ancora il tempo per brevemente per un ascoltatore, Matteo, che ha chiamato da Lucca, buongiorno. Sì, buongiorno, salve, buongiorno. Dica, Matteo. Senta, no, non parliamo di mercato, perché io sono juventino, quindi lasciamo perdere quello che è successo. Volevo parlare del fair play in questo senso. Prima parlavamo del Barcellona. Il Barcellona, se non sbaglio, ha una montagna di debiti, tipo 400 milioni di euro di debiti, più o meno, insomma. E addirittura la campagna acquisti di quest'anno se l'è fatta finanziare con un prestito di 160 milioni di euro da alcune banche. Ora io dico, questa qui per comprare Viglia e poi per comprare Mascherano, questa qui non è un po' concorrenza sleale? Cioè, alla fine... Io ho l'impressione di sì, mi scusi Matteo, siamo proprio in chiusura, ho l'impressione di sì, e ne abbiamo parlato all'inizio. Dato però che questo argomento ha... Molto preso, no? Voi ascoltatori, oltre che me personalmente, questo sarà un argomento che approfondiremo nel corso di tutto l'anno, ma anche in tempi molto brevi. Grazie a tutti gli intervenuti, grazie a Franco Piantanida in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Buon pomeriggio. A tempo di sport.